Cuidadín, cuidadín, cuidadín, cuidadín. Modosito, borra mercerito. ¿Qué iba a decirte? Con este disquito no puedo parar de bailar. Hasta luego, Luca Miri. Steve. da mercerito sessual. E lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, più, più, più. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Fare, fare, fare, fare. luego, Luca Miri. Que lo sepas. about you, you and you. Thank you.

finisce qui, e non finisce più, e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più. Come on! Love. love you. I love you. I love you. Look at me to know that every word tonight.